Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Italian Podcast Network ed oldgamesitalia.net presentano Archeologia videoludica Remix. Ebbene sì, puntata Remix, questa puntata particolarmente speciale che vi avevamo promesso per lasciarvi sotto gli ombrelloni un po' di musica da zompettare o da infilare nelle casse delle spiagge dove state sicuramente balneando. Permettetemi prima alcuni ringraziamenti per questa fine stagione e inizio nuova stagione, chiaramente, perché questa la possiamo considerare una sorta di speciale 3x00, quindi inizio della nuova stagione di archeologia videoludica. Quindi ringrazio Marco Gualdi, il distruggitore, sicuramente ringrazio Roberto Bertoni per il grande lavoro che ha fatto, ma ancora in particolar modo Giuseppe Peppe Scaletta, anche detto professor Jones, per il grandissimo lavoro di ricerca, di studio e anche di esposizione che ha fatto durante questi mesi. Lo salutiamo e lo invitiamo ovviamente a tornare il prima possibile, visti i suoi grandi impegni. Ringraziamo Alex Raccuglia, che momentaneamente sta sostituendo Andrea Milana nella parte tecnica, e ovviamente ringrazio anche Andrea Milana, ma in particolar modo in questo episodio ringrazio Andrea Milana perché è il suo episodio. È un episodio del quale possiamo considerare Andrea l'autore, proprio per tutti i brani che chiaramente sono tutte opere sue, ma anche per la serie di informazioni che saranno all'interno di questo piccolo brano, in questi brevissimi interventi che farò io, che ovviamente spezzerò musica e musica, perché ovviamente sono estratti dalla sua conoscenza, ma soprattutto dai suoi ricordi. Prima di iniziare vi ricordo che questo è una sorta di tributo e di ringraziamento, di regalo che noi facciamo ai nostri ascoltatori, proprio per la pazienza, l'amore e la passione con la quale ci avete seguito durante queste 10 puntate della seconda stagione e anche le puntate della primissima stagione, e vi ringraziamo per i complimenti che ci avete fatto durante questi mesi e continuate a farci, proprio perché ci fa piacere il fatto che venga riconosciuto quanto questa trasmissione sia cresciuta piano piano nel tempo, trovando anche una sua collocazione e una sua forma. Ma adesso è ora della musica. Molte delle informazioni che troverete in questa puntata, chiaramente, e anche molti brani, anche se magari non nelle versioni complete o nelle versioni complete, non lo sappiamo, lo troverete anche in www.andreamilana.com. Ringraziamo ancora una volta gli amici di allgamesitalia.net, che sono ovviamente una parte importante di questa trasmissione. Ed iniziamo subito con il primo brano, forse uno dei primi, se non addirittura il primo brano che Andrea Milana ha concesso ad archeologia videoludica quando i nostri rapporti erano agli albori. Un brano di grandissima atmosfera, un brano assolutamente fantastico che io ho apprezzato tantissimo, perché è un brano che ha delle grandi particolarità. Intanto perché è il brano di un gioco fantastico, Another World del 1991, distribuito da US Gold e prodotto dalla Delphin Software Cinematic. Chi è appassionato di retro gaming ovviamente non può non conoscere la fantastica storia di fantascienza di Another World, la sua rappresentazione vettoriale, questa nuova tecnica che la Delphin provò a sperimentare e che in effetti riusciva a dare una cinematograficizzazione ai giochi, che allora sicuramente era difficile da pensare in altrimenti. Il gioco è di Eric Shahi, insomma, difficile da pronunciare, ma insomma sicuramente tutti quanti lo conoscono. Eric, che ovviamente è anche conosciuto da Andrea Milana, perché Andrea è riuscito a fare la traduzione italiana del sito anotherworld.fr, e qui pare ci sia in ballo ancora anche un'intervista, insomma, a ricambio. Poi pare che Eric abbia ringraziato Andrea spedendogli una gigantografia di se stesso sulla bocca di un vulcano, che pare sia una delle sue grandi passioni. Jean-François Freitas è l'autore della musica originale, fu uno dei pochissimi giochi, anzi forse fu uno dei primissimi giochi che riusciva ad avere un'atmosfera veramente calzante ed adeguata al tipo di gioco, ma soprattutto alle reali atmosfere misteriose del gioco. Ricordiamo Another World, è la storia di questo scienziato che durante un esperimento viene catapultato in una sorta di dimensione parallela, in un altro mondo, in un altro pianeta, e da lì in poi l'esplorazione del pianeta stesso fino ad arrivare insomma ad essere catturato, a cercare poi di fuggire. Ricordiamo che Another World ha avuto anche un seguito che fu presto dimenticato, e anche grazie a Dio. Andrea era particolarmente indeciso se utilizzare la musica di introduzione del gioco o se utilizzare la musica finale, però la scelta è andata verso la prima, proprio perché comunque non soltanto è quella probabilmente più conosciuta, ma è sicuramente quella che calza meglio con le atmosfere del gioco. Questa remix è stato realizzato nel 2009 su Reason, poi ovviamente ripreso e riadattato, come dice lui, in versione HD a luglio del 2012, sicuramente con Cubase. Ascoltatevelo perché è veramente un brano fantastico. Grande, grande, grandissima atmosfera, veramente il brano fantastico, il remix di Andrea veramente gli dà forse probabilmente quel qualcosa in più per renderlo sia attuale che ascoltabile ai giorni d'oggi. Ok, veniamo al secondo gioco, anche qui delle sonorità non troppo dissimili, non entriamo ancora nel vero unz e punz punz, perché parliamo di Fury on the Furious, che è stato un gioco un po' particolare, una sorta di gioco anche questo a piattaforme, dove ci si controllavano dei personaggi a forma di sfere pelose, insomma delle palline pelose un po' particolari, che bisognava utilizzare con un certo criterio, perché similmente a Lemmings, ognuno di questi aveva delle peculiarità, delle particolarità che dovevano essere utilizzate in determinati particolari momenti del livello per portarlo poi a conclusione. L'autore dei brani di questo gioco si chiama Frederick Mott, oggi conosciuto come El Mobo, anche se c'è una piccola curiosità: in realtà all'inizio, nei primi tempi, lui si faceva chiamare Moby, poi ovviamente per ragioni legate alla maggiore popolarità del cantante Moby, appunto, scelse un altro nick, un altro modo per farsi riconoscere, che era El Mobo. Andrea praticamente pare amasse particolarmente i brani di questo videogioco, li ascoltava indipendentemente dal videogioco stesso, e questo la dice lunga, insomma, anche sulla sanità mentale del nostro autore, nonché regista di questo episodio. Pare che la storia di questo remix sia stata anche abbastanza travagliata, perché Andrea lo realizzò nel 2010 su Reason, ma durante gli anni successivi praticamente provò a modificarlo più e più volte, non trovando una soluzione che lo soddisfacesse. Poi praticamente sembra che a giugno di quest'anno trovò l'ispirazione, quindi esportò tutte quante le tracce da Reason senza gli effetti, lo importò in Cubase. Ha rifatto tutta la parte ritmica del brano con Korg e il Tribe S1. Tutto questo lavoro l'ha fatto soprattutto sulla linea di basso, usando Massive, insomma, per un suono finale da farsi sentire, che poi insomma riuscirete ad apprezzare nel brano. Andrea Milana si ritiene abbastanza soddisfatto, insomma, del risultato che ha ottenuto, cercando di non stravolgere ovviamente la linea originale della melodia, ma cercando semmai di enfatizzarle un po' l'atmosfera, soprattutto la parte suonata con il flauto di Pan, che ha cercato di rendere più realistico e allo stesso tempo più magico. Vediamo insomma qual è poi il risultato. Abbiamo detto, il brano è di Frederick Mott e il Mobo, e questa è Fury of the Furious. We'll be right back. Dai, il primo che mi dice che questi brani non sono fichissimi, veramente si merita la cancellazione di tutti gli hard disk che ha dentro casa, ma non soltanto perché erano veramente fighissimi, ma perché allora probabilmente il mondo dei videogiochi era uno di quelli, uno di quei mondi dove veramente si sperimentava e si dava libero sfogo a alcuni tipi di creatività e di sperimentazione dal punto di vista musicale. Arriviamo a Shadow of the Beast 3, vabbè, qui siamo nel 1992, Psygnosis, siamo in piena era Amiga, come giustamente ci ricorda Andrea. Era il periodo in cui si compravano le varie riviste tipo K o The Games Machine e si vedevano 10 giochi fighissimi e super coloratissimi per Amiga 500 e pochissima roba, poco colorata e molto triste per PC. In realtà stiamo parlando dell'epoca in cui lo scorrimento aveva segnato praticamente il predominio dell'Amiga rispetto a tutti gli altri, tutte le altre macchine da gioco. Amiga, insomma, che penso sia stata veramente una delle pietre miliari e che non so se nella prossima stagione riusciremo ad arrivarci, ma insieme al Commodore 64 probabilmente sarà uno dei momenti più importanti di questa nostra trasmissione. Su questo gioco e sulla Psygnosis in particolare ci sarebbero tantissime cose da dire, proprio perché comunque hanno segnato un momento importante proprio della storia dell'Amiga 500, la storia dell'audio, della musica per quanto riguarda i videogiochi, ma anche dal punto di vista grafico con la collaborazione di Roger Dean. Però molto probabilmente alcune di queste informazioni saranno poi successivamente date anche nelle puntate successive di Archeologia Videoludica. Quello che possiamo dire è quanto questo gioco abbia segnato anche, insomma, la volontà di Andrea di esplorare anche questo aspetto musicale, ma non soltanto, anche il gioco che pare abbia recentemente ricomprato su eBay in versione originale scatolata, chissà poi se funziona veramente. Di Shadow of the Beast sicuramente il terzo capitolo è stato uno dei più apprezzati, se non il più apprezzato sicuramente da Andrea, che di tutto il gioco e delle musiche gli piaceva quel senso di cupezza che era permeato in tutto quanto il gioco. Quando lesse la recensione di Shadow of the Beast 3 ovviamente se ne innamorò immediatamente. Ricordiamo che questi giochi poi tra l'altro erano anche estremamente difficili, quindi non sono i giochi sicuramente da adesso. In questa versione ovviamente di questo brano Andrea ha cercato di riportare tutta quanta l'atmosfera un po' triste, un po' cupa, come quella dell'introduzione delle melodie fatte in piano, e quindi la scelta è stata abbastanza scontata. Anche qui l'inizio del lavoro nel 2011 su Reason e poi portato e finalizzato su Cubase, con un lavoro durato da novembre del 2011 fino a luglio del 2012. Le musiche originali sono di Tim Wright. Questo è Shadow of the Beast 3. i giochi fini anni 80 e anni 90 erano tutti giochi, a molti erano giochi di grande spessore, erano giochi sicuramente difficili, ma erano comunque giochi all'insegna dell'ammazza spazza, e questo sicuramente dobbiamo riconoscerlo. Uno dei grandi capolavori e dei grandi capisaldi ovviamente della storia del videogioco e della storia della musica nei videogiochi è del 1987, della Technos Japan, Taito, che insomma riconosceremo sicuramente molto più facilmente. È un picchiaduro a scorrimento e si chiama Double Dragon. Il ricordo di questo picchiaduro a scorrimento che Andrea mi ha raccontato riguarda un villaggio turistico a Porto Rosa, praticamente dove pare che dentro la sala giochi c'era questo fantastico videogioco. Non riuscì a farci tantissime partite proprio perché lui era molto piccolo e sicuramente la difficoltà del gioco non lo avvantaggiava. Ricorda però con piacere il fatto che suo zio Carmelo lo vedeva particolarmente impegnato in questo gioco, e quindi ne rimase sicuramente curioso e attratto e volle anche lui provare a fare qualche partitina. E non sappiamo però, perché Andrea non ce l'ha mai raccontato, l'esito di queste partite. Non è un caso, e probabilmente me lo ha fatto notare Andrea Milana stesso, che i suoi remix spesso risalgono o fanno comunque riferimento ai primissimi livelli dei giochi. Questo per una cosa ovviamente abbastanza naturale, e questo mi ci aggiungo anche io, perché avendo un'età abbastanza avanzata, quando ero piccolo andavo in sala giochi sicuramente quando insomma da 7-8 anni non eravamo così tanto scafati per riuscire a portare a termine la maggior parte di questi giochi, e spesso ci dovevamo accontentare sia per i pochi soldi magari che per l'incapacità di fondo di giocare i primi 3 o 4 livelli. E sono ovviamente i primi 3 o 4 livelli quelli che ci sono magari rimasti più impressi nella nostra mente, prima poi magari di diventare appassionati e andare a riscavare, quindi a riprendere queste opere. E ovviamente le musiche di quei livelli sono le musiche che ti sono rimaste nella mente, e anche non sapendolo sono lì che occupano praticamente neuroni importanti della tua memoria. Kazunaka Yamane è l'autore dei brani originali di Double Dragon, e Andrea invece ha fatto i suoi remix, questa volta direttamente e esclusivamente su Reason, e tutto è stato finalizzato in aprile del 2012. Ascoltiamoci anche questo fantastico brano. La quinta traccia di questo speciale remix ovviamente non può prescindere da un gioco del 1992, un gioco che è stato un capostipite, lo sparatutto a scorrimento spaziale per antonomasia, il gioco che ha dimostrato le grandi potenzialità sia dal punto di vista grafico che la potenza musicale dell'Amiga 500, e parliamo di Project X. Il gioco ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni, se dovesse averne, insomma ragazzi, prendete il vostro tablet, il vostro telefonino, il vostro smartphone, il vostro computer da spiaggia, prendete quello che volete e andatevi a fare qualche ricerca. Insomma, è stato un grandissimo gioco per Amiga 500, a me faceva venire l'epilessia, ma sicuramente è stato un capolavoro assoluto anche dal punto di vista musicale. Le musiche furono all'epoca composte da Alistair Bramble, che tra l'altro a quanto pare fece anche personalmente i complimenti a Andrea Milana proprio per questo suo, o perlomeno della prima versione di questo remix. La grande soddisfazione di Andrea fu il fatto che questo divenne presto il suo polare, proprio perché addirittura Team 17, in uno dei suoi Twitter, facendo ovviamente i complimenti, linkò la pagina YouTube dove era possibile ascoltare il remix di Andrea Milana, e alcuni ovviamente tra i vari commenti sparsi nella rete dissero che soltanto Alistair stesso avrebbe potuto probabilmente fare di meglio, e questo è un tirarsela da parte di Andrea che possiamo tranquillamente concedergli, perché di Andrea possiamo dire tutto tranne che non sia veramente un grande a fare quello che fa. Korg Electribe MX anche per questo brano, finalizzato nel 2011 a giugno per la precisione, e vi diamo subito un piccolo avviso: ragazzi, mettetevi in piedi, cominciate a zompettare, ma soprattutto mettete a palla le vostre casse, se avete un subwoofer appiccicatelo, perché comunque è il momento di iniziare a fare un po' di unz unz. via, qui è iniziata veramente l'estate, ragazzi, quindi continuiamo con un po' di ritmo, continuiamo a zompettare, mi raccomando, fate divertire anche i vostri amici. In ogni caso, dicevamo che i giochi che andavano tantissimo all'epoca erano i giochi di spadare e di menare, quindi giochi a piattaforme a scorrimento, dove praticamente si prendeva ammazzate qualsiasi cosa che veniva verso di noi. E la stessa cosa nel 1991 della Image World non poteva ovviamente essere anche The First Samurai. Di questo gioco possiamo sicuramente ricordare la fantastica grafica e sicuramente le musiche particolarmente ispirate, soprattutto la musica dell'introduzione. Probabilmente il gioco era un po' frustrante, un po' lento, ma ribadiamo, non tutto dell'epoca riuscì a meraviglia, ma ciò non ha impedito a questi giochi, anche i giochi magari forse meno riusciti dal punto di vista tecnico o della giocabilità, del gameplay, di diventare delle pietre miliari e quindi ovviamente dei pezzi di storia del mondo del videogioco. Questo remix Andrea lo ha iniziato nel 2009 su Reason, ci ha lavorato veramente molto anche in questo caso per arrivare ovviamente alla versione che fece a gennaio del 2012 proprio per uno degli episodi di Archeologia Videoludica, ma non soltanto per questo episodio, perché ovviamente ricordiamo che Andrea sta lavorando, ha lavorato a un album tutto suo e che sicuramente le informazioni in merito a questa sua opera le troverete su www.andreamilana.com. Poi chiaramente, come ho già detto, non si sa se a seguito di questo episodio potrebbero arrivare nei primi mesi, insomma autunnali, anche una simpatica sorpresa che potremmo fare ovviamente in favore dei nostri grandissimi ascoltatori. Il brano è di Nick Jones, ci ascoltiamo quindi The First Samurai. Thank you. facciamo un piccolo salto indietro e ovviamente non possiamo non farci scendere una lacrimuccia se io vi nomino un team abbastanza famoso all'epoca e soprattutto alla fine degli anni 80, i Bitmap Brothers. Ovviamente io mi impiccio un po' con la lingua, però insomma chi non ricorda questo team che ha partorito un capolavoro come Xenon 2 Mega Blast. Il gioco ovviamente era un classico sparatutto a scorrimento verticale, difficilissimo come era tradizione dell'epoca, però un tassello importante, uno scalino sul podio di questo lunghissimo podio ovviamente dell'epoca dei videogiochi. Era il lontano 2008 quando il brano di Xenon 2 Mega Blast diede il via praticamente al progetto di Andrea Milana Vintage Game Remixes, anche se dire il lontano 2008 forse può sembrare un po' insomma esagerato, però a noi ci piace anche usare questi termini perché in fondo sempre di retro gaming stiamo parlando, e anche se stiamo parlando di rifacimenti insomma parlare al passato è sempre divertente. Pensate che questo gioco Andrea Milana lo ha giocato su un 286, e chi conosce la storia dei PC, quindi degli IBM compatibili come si diceva a suo tempo, sa di che cosa sto parlando. Il gioco ovviamente andava un po' lentino e anche senza qualche sforzo ovviamente Andrea è riuscito a completare il gioco. Io a memoria non ricordo se l'ho mai completato, però sicuramente lo ricordo, e lo ricordo anche abbastanza bene. Bomb the Bus, David Whittaker, il brano che Andrea Milana è andato a realizzare ovviamente del 2008, anche questo realizzato su Reason, con delle sonorità che riportavano alla memoria molto di più quello che era lo stile ovviamente degli anni 80, e questa scelta in qualche maniera va premiata perché sicuramente non sono soltanto le melodie e le belle musiche, ma anche il modo in cui queste atmosfere, questi suoni ci riportano all'epoca. Durante gli anni Andrea Milana ha ricevuto tantissime richieste di partecipazione a progetti remix o addirittura suggerimenti o addirittura proprio richieste per brani ex novo per quanto riguarda magari alcuni videogiochi che erano magari nella memoria di alcune persone. Ovviamente Andrea, essendo un tipo un po' particolare, non lo conosciamo, gli vogliamo bene per questo, adesso se tu gli chiedi una cosa è la volta buona che probabilmente non la fa, perché lui si deve sentire ispirato. Però sul forum di allgamesitalia.net, in un particolare post che probabilmente linkeremo nelle note dell'episodio, un utente, Boots Bomber, gli fece la richiesta di un gioco che tra l'altro io ammetto, insomma, nella mia ignoranza di non aver mai sentito, Cybernoid 2. E la musica di questo videogioco, le musiche di questo videogioco, insomma, hanno ispirato Andrea in qualche maniera e gli hanno fatto venire in mente quanto avesse potuto fare di buono con questo brano. Anche questo ovviamente è un brano realizzato nel 2008 con Reason e poi ovviamente finalizzato per l'occasione di questo episodio a luglio del 2012. Le musiche originali sono di Frederick Hahn. E veniamo al ninja senza cappuccio che combatteva contro nemici di tutti i colori, tanto per abbondare con le palette, insomma, per far vedere quanto erano capaci. Poi ovviamente a secondo dei sistemi sui quali il gioco veniva sviluppato o veniva trasportato. Stiamo parlando di Shinobi del 1987 della Sega. Stiamo parlando ovviamente di un cabinato, anche se Andrea ci dice che all'epoca preferiva più Ninja Gaiden che questo gioco qui, però ha avuto modo di giocarlo tantissimo e con maggiore entusiasmo, proprio perché avendolo a casa sul Sega Master System ovviamente ci si è potuto dedicare. Questo, il fatto delle console domestiche, sicuramente in qualche maniera non soltanto ha salvato la vita ai nostri genitori e all'economia familiare, ma ci ha permesso anche di appassionarci e di poter giocare, insomma, molto più liberamente rispetto a quanto potevamo fare ovviamente nelle sale giochi, perché vuoi o non vuoi, bravo o non bravo, comunque sempre i soldi ci dovevi cacciare dentro. Il motivetto musicale di Shinobi, che tra l'altro ricordiamo anche questo, ha fatto parte dei brani che Andrea ha messo a disposizione di Archeologia Videoludica durante i mesi di programmazione di questa seconda stagione, era un motivetto abbastanza ripetitivo e fastidioso, e forse anche per questo motivo, per un piccolo senso di masochismo, Andrea ha pensato bene di farne un remix. È stato realizzato nell'estate del 2011 appositamente, appunto, per Archeologia Videoludica, quando stavamo iniziando la lavorazione e la collaborazione del nostro progetto, assieme ovviamente Andrea, che ha fatto fare un grandissimo salto di qualità ad Archeologia Videoludica, e questo non possiamo sicuramente negarlo, anzi è stata una cosa che è stata riscontrata tantissimo dai fan e dagli ascoltatori del nostro programma. E pur ringraziando Alex Raccuglia, che sta facendo un grandissimo lavoro, chiaramente sempre un minimo, insomma, di supervisione di Andrea, speriamo che Andrea torni sia con i suoi remix che con ovviamente la sua partecipazione attiva all'interno del nostro programma, quando avrà risistemato cose importanti nella sua vita, che ricordiamo grande e importante è la promozione a livello lavorativo, e ovviamente sia il matrimonio che l'acquisto di una casa, tra l'altro fantastica, nella quale io già mi sono auto-invitato. Vi ricordo, stiamo parlando di un gioco del 1987 della Sega che è stata importantissima nell'ambito della musica nei videogiochi, così come avrete modo di scoprire e ascoltare altri programmi podcast che parlano di musica nei videogiochi, e che verso la fine vi suggerirò, proprio perché comunque meritano un minimo di attenzione. Yasushiro Kawakami è l'autore di questo brano relativo a Shinobi, che adesso facciamo spaccare nelle vostre casse. veniamo a quella che in teoria dovrebbe essere l'ultima traccia di questo fantastico episodio, che spero veramente vi abbia fatto divertire, vi abbia fatto ricordare, ma soprattutto vi abbia fatto zompettare, vi abbia fatto passare un momento carino, tranquillo, magari in un momento di stanca durante la vostra, il vostro soggiorno sulla spiaggia sotto l'ombrellone, quando soprattutto noi maschietti ogni tanto, se non abbiamo altro da fare, ci rompiamo un po' i coglioni, diciamo la verità, e arriviamo al 1987, quindi un altro piccolo salto indietro della Taito Rustan Saga. Parlare del gioco anche in questo caso, ci saranno momenti e ci saranno sicuramente altre persone che meglio di me magari lo potranno fare, però insomma siamo sempre alle solite piattaforme a scorrimento dove ogni tanto prendiamo ammazzate delle cose verdi che si avvicinano verso di tutto. Comunque di ispirazione abbastanza fantasy, il protagonista ricordava non in maniera tanto nascosta Conan il Barbaro. Il gioco non era particolarmente frenetico, però insomma diciamo che è un gioco che è rimasto molto alla, nella memoria dei retro giocatori, in particolarmente spesso e volentieri molto ripescato, e se ne sente parlare non raramente nei podcast di retro gaming. Per quanto riguarda perlomeno il primo, i seguiti furono sicuramente un insuccesso per tantissime svariate ragioni. Pare che questo videogioco fosse stato installato in una sala giochi vicino casa di Andrea Milana, ma non soltanto, anche vicino scuola. Questo insomma probabilmente può anche lasciarci mal pensare rispetto a quello che faceva Andrea quando usciva di casa, in teoria andando a scuola. Ovviamente dentro la sala giochi c'era la musica del videogioco sparata a palla, ed il gioco a memoria di Andrea ovviamente era difficilissimo, ma ribadisco, i giochi all'epoca erano tutti difficili, e soprattutto questo è era tutto a vantaggio dei gestori delle sale giochi, che chiaramente per giocarci, per andare avanti, spesso e volentieri si mettevano ulteriori monetine per poter proseguire o per poter ricominciare. Il ricordo frustrante è il fatto che Andrea andava a finire dentro tutte quante le pozze d'acqua sparse nel primo livello, ma lui sostiene che probabilmente il salto non era ben calibrato, e questo lo dicevano tutti quelli che ovviamente finivano dentro le pozzanghere di qualsiasi altro gioco. Questo è uno dei remix che Andrea ha impiegato più tempo per realizzare, e in qualche maniera ora lo ascolterete, si sente sicuramente dall'ascolto, perché comunque è abbastanza elaborato, il tempo che ci è stato impiegato è veramente molto, ed è uno dei remix che piace tantissimo a uno degli utenti di allgamesitalia.net, che ovviamente ricordiamo e salutiamo con molto piacere, che è The Ruler, che è diventato un fan di archeologia videoludica, ma tra l'altro anche di IPN, di Multimania, di tantissime nostre altre trasmissioni, e questo ci fa chiaramente molto piacere. Realizzato con Reason nel 2008-2009, Naoto Yagishita e Masahito Takaki sono gli autori di questo brano tratto da Rustan Saga. Ebbene, mentre che facciamo risuonare ancora un po' di musica in sottofondo, perché ovviamente non vogliamo crearvi traumi dopo questo grande divertimento che avrete sicuramente approfittato, sono per scatenarvi sotto l'ombrellone mentre che gli altri vi guardano muovere le zampette e voi siete con le cuffie e nessuno capisce il perché, ma questo potrebbe anche essere divertente. Io ve l'ho già detto, avreste potuto tranquillamente attaccarlo allo stereo della macchina o all'impianto stereo della stazione balneare dove siete, attaccare subwoofer a destra a manca, riascoltatevelo se vi è piaciuto. Vi ricordo che probabilmente ci sarà un'iniziativa della quale ancora non parliamo, perché non è non che non sia certa, ma purtroppo non siamo riusciti probabilmente a rispettare i tempi che avremmo voluto per realizzare quello che volevamo realizzare. Nel frattempo io vi do un arrivederci chiaramente per settembre, per Archeologia Videoludica, che riprenderà con la sua puntata 3, terza stagione, puntata numero 1, una puntata pilota abbastanza particolare, che dovrebbe essere tra l'altro uno speciale che sicuramente interesserà tantissimi di voi. Nel frattempo continuate a riposarvi, continuate a divertirvi e tenetevi sempre Archeologia Videoludica vicino al cuore. Ciao.